Bene, allora io direi che possiamo iniziare. Vi do un caloroso benvenuto a nome della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che appunto è in questo appartamento, è un luogo così, lo definiamo sempre un po' magico perché da fuori non si capisce bene cosa ci sia, poi qua dentro c'è la sorpresa. È una biblioteca che esiste da quasi 15 anni. È così attiva su più fronti, nel senso che intende non solo offrire delle raccolte bibliografiche sempre aggiornate, in particolare sul Trentino Alto Adige, sulle, quello che si definisce così tirolense, ma anche sulla saggistica di un certo livello, anche perché insieme alla Civica e alla Tesman poi andremo nel polo bibliotecario e ci stiamo organizzando per creare una collezione comune, un domani e plurilingue soprattutto. Ma dall'altra, da parecchi anni siamo attivi così nell'organizzare degli eventi, delle presentazioni di libri, ma anche degli eventi diversi da una semplice presentazione di libro come quella di stasera, perché crediamo che la biblioteca debba essere un luogo di incontro e debba nello stesso tempo offrire sempre nuovi stimoli, incuriosire le persone e anche fare in modo che le persone si incontrino. È una straordinaria occasione quella che ci viene offerta questa sera da Lilia Ianeva, dal maestro Roberto Satta e da Carmen Esposito, e non voglio dimenticare Aaron Moroder che è qui con noi e tutti voi insieme, perché avremo la possibilità di ascoltare attraverso il canone poetico tutta una serie di sentimenti, di emozioni, però accompagnati anche da una voce professionale come può essere quella di Carmen Esposito, da una voce giovane come quella di Aaron Moroder e da una musica che ci accompagnerà e ci allieterà. Questo perché è comunque un linguaggio universale e quindi anche la nostra vocazione di cercare di avere sempre degli stimoli nuovi per riuscire a portare a casa ogni volta che si entra in questa biblioteca qualcosa di buono. Questo è un po' il nostro motto. Siamo contenti di avere anche questa occasione e l'occasione ce l'offrono le persone che ce le propongono. Per questo voglio ringraziare il maestro Roberto Satta, Lilia Ianeva e tutti coloro che hanno concorso alla riuscita di questo evento. Grazie, grazie a voi. Se avete piacere di rimanere in contatto con noi, la biblioteca è raggiungibile e noi vi possiamo raggiungere se vi iscrivete, è semplicemente la compilazione di un modulo a titolo gratuito e possiamo mandarvi gli inviti a casa oppure farvi accedere a una banca dati e il BiblioWeb, che sono praticamente 1900 riviste e quotidiani in 50 più lingue, tra cui anche quella bulgara. Ecco, e da casa si possono leggere se si è iscritti a questa biblioteca. Vi ringrazio, benvenuti e buona serata a tutti. Proposto è un notturno di Lao Silesu, un compositore sardo emigrato in Francia. Thank you. prossimo brano è di un compositore bulgaro, Krasimir Miletko, e Trakliska Pesen, canzone Traccia, dal Bacillus Bulgaricus. Che è col tema di una canzone Shovska, cioè della regione di Sofia. Thank you. prepariamo un attimo. Chi mi segua con le luci, per cortesia. Ci vuole un attimo di calma. Ci arrivi. Vicino, vicino, vicino. Vicino, vicino. Нуждата от ласка е нужда да се родиш. Il bisogno di carezza è il bisogno di nascere. Il bujan de se smilé vuol dire il bujan de nascere. Bedürfnis nach Liebkosung. Bedürfnis nach geboren werden. La sintonia di aprire bocca. Quadro. Così grande che diventa invisibile sulla pelle. Una certa leggerezza, spina dorsale. Il gusto del rosso. Ascolto. Zwischen den Fingerkuppen einen Kuss. Achtung, да задържиш между пръстите си една целувка. Уважение. Tenere tra le dita un bacio, stima, l'affetto sulle ciglia, è tutto. Обичта е върху милите. Всичко. La mattina gli angeli hanno gli occhi grandi così. Vero, vicini, amore. Meno espressione, più amore. Silenzio. Canti una spietta, i uodli diventa brums. Давай бом. От очакване очите стават сини. Нежност. Tenere stretta vicina una cosa, come la coda di un gatto. Larga, morbida e calda. Saggezza. I girasoli dormono di notte. Meditazione. Quando la schiena fa da olfatto, leggerezza. Mani infinite come la luce. Hände unendlich wie Licht. Platz. Престилката. Weinen. In die Schürze. Oma. Баба. Вещо. Фу. Туке. Immer sein. Berührung. Да си тук винаги. Досек. Esserci sempre. Tocco. Досек. allievi dell'indirizzo musicale della scuola Meriattieri del liceo Pascoli, della scuola di musica di Gardena e della scuola d'Erta d'Ortigè, vi concluderanno questo pomeriggio. Con inizierà William Gillock, The Jubler, di Sara Parolari, terza media. GF, romanza senza parole. Sofia Stoppa. Parashkefa Gir, Jorge, Rares Roberto Prado, terza media. Prima media. Schwertberger, Woodpecker Boogie, Rebecca Zlompo, seconda media. Opera 28 numero 4, Damiano Valentini, prima superiore. Francisco Tarrega, Lagrima, e di Giovanni Unterberger, Country Blues. Suona Augusto Valentini, prima superiore alla chitarra. Vidal Farei, Yasmin Franceschini e Aaron Morone suonano e cantano Metallica, Nothing Else Matters e a Delta Bill Lida. Thank you. Soprattutto iniziando con i miei stupendi, bravissimi studenti. Guarda, sono giovane, io mi considero meno brava di loro, e ve lo dico proprio qui, visto che vicinanza, eccetera, tutti questi contesti così di intimità, di confessione, cioè loro sono le persone giovani, devono crescere, sì, col nostro aiuto, però loro sono il futuro, loro sono la cosa più bella, loro sono i fiori, noi solo possiamo dargli una mano e basta. Non gli diamo una mano. Vi dico un'altra cosa, che poi dopo l'ho scoperta io a Ortisei questa cosa, cioè non l'ho scoperta eccetera studiando a Bolzano oppure a Sofia, che ho vissuto in una città gigantesca, ecco, io l'ho scoperta a Ortisei questa cosa qui, che no, non sono io che insegno a loro, è loro che insegnano loro a me, cioè spesso le conferme che mi danno loro servono proprio per la mia vita di artista. E io dico spesso, io non mi voglio considerare solo cantante, io sono un artista, e io in questo contesto voglio dire per Ortisei, cioè il fatto di questa arte, il fatto di tutta questa arte che c'è anche dell'arte molto sincera, che è bellissima, e ringrazio questa città, ringrazio appunto di aver avuto l'occasione di conoscerla qui, insomma, di tutti questi artisti, ringrazio anche Philip Moroder che c'è qui, che è un grande, grandissimo artista, a cui ringrazio, e poi Vincent Zenona, che non è riuscito a venire, ma di cui sono stata molto, molto ispirata, perché apprezzo tanto i suoi quadri, cioè bisogna dare importanza alle cose quando ci sono delle belle cose, bisogna dare importanza alle belle cose, cioè noi non possiamo così tacere quando c'è una bella cosa, e quindi io questo libro, 43% del motivo per cui io ho creato questo libro era proprio questa ispirazione, perché le cose belle devono essere evidenziate, perché ci sono delle persone che fanno catalogi tematici di una mostra, però bisogna dare un motivo, qual è il motivo? La vita ci porta, e tutto è proprio molto naturale, dare una espressione, dare una faccia, che tutta questa arte bella prende una faccia. E quindi per me è stato importante anche questa collaborazione appunto con questi quadri di Vincent, e così poi ho ringraziato il studente, ho ringraziato Philip Moroder, grande artista di Val Gardena che stimo tantissimo, a Vincent che non è riuscito a venire, ringrazio tantissimo la direttrice Valeria Trevisan di questa accoglienza, di questa cosa così con tanta professionalità fatta stasera, organizzata e tutto, ringrazio tanto a Roberto Satta, mio marito, che lui ha anche moltissimo contribuito nell'organizzazione e nel coraggio, e non per ultimo ringrazio tantissimo Carmen, cioè io ho rivissuto le mie poesie tramite lei. Grazie. E io spero solo che questa esperienza si ripeta nel futuro, perché l'arte ci deve portare a una certa autoconoscenza. A che cosa serve l'autoconoscenza? Non a capire quanto grandi siamo o quanto piccoli siamo, eccetera. Per capire noi stessi vuol dire amare noi stessi, amare gli altri e riuscire ad andare avanti in modo naturale, così come siamo. Ecco, quindi mi auguro che questi eventi così belli si ripetano, perché le cose belle nella vita non sono poi così tante, bisogna evidenziare quelle belle. Ringrazio a tutti voi della vostra presenza, della vostra cordialità, di essere qui stati numerosi, e vi ringrazio ancora un'altra volta di cuore. Buona serata e buon proseguimento.